Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Manca una manciata di secondi alle 17.06. Buonasera da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia, il racconto della giornata economico-finanziaria. Siamo appena il 3 gennaio, eppure i temi di dibattito davvero non mancano anche in queste primissime giornate del nuovo anno, e oggi parleremo di nuovo della vivacità della giornata in borsa. Molto bene, vanno le cose. L'Europa era partita già benino, non per tutti gli indici questa mattina, poi è arrivata Wall Street che ha contribuito ad incrementare di nuovo i guadagni del vecchio continente. Ci sono stati dei buoni dati economici sia in Europa che negli Stati Uniti, e tutto questo a quanto pare sta favorendo gli acquisti sul mercato azionario. Bene l'euro, oggi ci ha riturbato un pochino lo spread, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi a scadenza decennale, partito sotto 500 punti, poi ritornato su questo livello, lo ha superato, adesso è ridisceso di nuovo sotto, però pare che la Banca Centrale Europea oggi sia tornata a comprare titoli italiani un po' per calmare le acque. Un altro tema finanziario sul quale si stanno concentrando un po' gli operatori è il ritorno alla crescita del prezzo del petrolio, perché a New York è ritornato sopra i 100 dollari, livello dal quale si era distaccato un po', almeno negli Stati Uniti, mentre il Brent a Londra è stabile sopra i 100 dollari già da qualche tempo, e questo viene un po' guardato anche nel nostro paese, perché già che stiamo avendo a che fare da diversi giorni a questa parte di nuovo con delle fiammate del prezzo della benzina a causa dell'aumento delle accise e di tutti gli aumenti appunto che ci sono stati in questi giorni, non vorrei che adesso si prendesse a pretesto anche questo nuovo andamento sui mercati internazionali per ridare un'altra spolveratina verso l'alto alle quotazioni appunto dei carburanti, ma speriamo che questo non accada. Di fatto però oggi si è toccato su più città nel nostro paese 1,80 euro appunto come prezzo dei carburanti. Di che cos'altro parleremo? Un tema molto delicato, lo avete sentito anche citato nel nostro giornale radio, il tema della riforma del mercato del lavoro, che dopo la revisione appunto della questione pensionistica è adesso altro tema all'ordine del giorno dei programmi di governo, ma oggi è già scattata una polemica con i sindacati, perché bisognerà vedere come si tratterà con le parti sociali su questa riforma. Ci sono delle richieste molto precise nel mondo sindacale sul fronte appunto della concertazione. Si chiedono negoziati bilaterali con le singole organizzazioni sindacali, ma negoziati multilaterali. Pertanto vedremo un po' quale sarà l'indirizzo del governo, che invece intenderebbe a quanto pare proseguire sulla strada di appunto incontri individuali con le singole sigle, ma oggi già Susanna Camusso ha fatto sapere che non intende accettare questo tipo di percorso. Vedremo soprattutto poi quali sono i temi al centro delle idee del ministro del welfare Fornero e come intende proseguire appunto sulla strada della riforma, come vi dicevo, del mercato del lavoro. Un altro tema del quale parleremo, oltre che dei casi di borsa, oggi magari vedremo qualche dettaglio in più, come abbiamo fatto ieri sulla storia di Monte dei Paschi, oggi andremo a curiosare ancora di più su quanto sta accadendo in casa Ligresti, che oggi Premafin finanziaria sta guadagnando il 25% in una giornata in cui il FTSE MIB segna un più 1,27%, il FTSE All Share più 1,26%, bene anche le altre piazze. Appunto cercheremo di capire qual è il punto della situazione sulla riorganizzazione finanziaria della compagnia di assicurazione appunto della famiglia Ligresti. E altri temi di cui parleremo: il mercato dell'auto, che chiude l'anno ovviamente in sofferenza, ne abbiamo parlato molto spesso, quasi ogni mese facciamo il punto della situazione sulle immatricolazioni di auto nel nostro paese, sulle vendite, su come va questo mercato del lavoro. Ieri abbiamo avuto appunto i dati conclusivi sull'andamento dell'intero anno e questa sera li commenteremo, soprattutto per cercare di lanciare uno sguardo anche ai prossimi mesi con il presidente di Federauto. Questi un po' i temi principali, ma naturalmente ne abbiamo tanti altri come sempre da raccontarvi. 349-238-6666 il numero per i vostri sms se vorrete commentare le notizie economiche del giorno insieme a noi. Adesso queste notizie economiche, almeno quelle in breve, andiamo a raccontarvele. Allora, come vi dicevamo, l'inizio dell'anno segna anche un ritorno di fermento Nel settore delle commodities, delle materie prime, oggi ha segnato un rialzo anche la quotazione dell'oro a 1587 dollari l'oncia, non dico il barile come qualche volta mi capita di sbagliare, tanto per far divertire i nostri ascoltatori, ma per quello che riguarda il barile vero, quello di greggio, oggi il petrolio a New York, ricordiamo che ieri le negoziazioni a Wall Street erano chiuse per festività, il petrolio appunto ha riaperto l'anno correndo ed è arrivato a 102,14 dollari al barile, il Brent a Londra è arrivato a 111,17. Dicevamo prima che oggi ad imprimere una certa accelerata le contrattazioni sul mercato americano, oltre al fatto che Wall Street deve recuperare anche la seduta di ieri, ci sono stati alcuni dati macroeconomici che hanno positivamente colto le aspettative appunto degli operatori e degli analisti. Il primo dato è stato quello relativo alla spesa per le costruzioni edilizie negli Stati Uniti, che in novembre è cresciuta dell'1,2% rispetto ad ottobre, con il settore privato che è salito dell'1% ai massimi dal dicembre 2009. Un altro dato che è cresciuto inaspettatamente, l'indice ISM manifatturiero, che a dicembre ha segnato 53,9 punti da 52,7. Il dato è superiore alle attese degli analisti e poi appunto c'è anche questa buona notizia che si mantiene al di sopra dei 50 punti, che indica una situazione di espansione dell'attività economica. Le maggiori economie al mondo hanno più di 7.600 miliardi di dollari di debito che verrà a maturazione nel 2012. A fare i conti l'agenzia Bloomberg, che ha sottolineato che il Giappone ha un debito a maturazione quest'anno di 3.000 miliardi di dollari e gli Stati Uniti di 2.800 miliardi di dollari. Terza l'Italia con 428 milioni di dollari, 327 milioni di euro. Vi raccontavamo prima dello spread, del differenziale di rendimento fra il BTP italiano, cioè il titolo decennale del nostro paese, l'analogo titolo tedesco, il Bund, che stamattina è partito scendendo sotto i 500 punti base, poi è ritornato su questo livello, adesso è ridisceso di nuovo, il rendimento per il decennale è intorno al 6,89-6,90%. Oggi il mercato europeo ha guardato a questi due dati nettamente contrapposti, assolutamente divergenti. Il tasso di disoccupazione in Germania e quello in Spagna. Cosa è successo in Germania? Che il livello della disoccupazione è sceso al 6,8% dal 6,9% del mese precedente. Siamo al minimo dalla riunificazione grazie al boom delle esportazioni di auto e componentistiche e al buon andamento delle costruzioni. Il numero dei disoccupati, fa sapere l'agenzia del lavoro tedesca, è sceso su base destagionalizzata a 2,89 milioni, 22.000 posti in meno rispetto, 22.000 appunto in meno rispetto al mese precedente. Per quello che riguarda invece la Spagna, qua abbiamo avuto un nuovo record dei disoccupati, perché i senza lavoro hanno toccato i 4.422.000 unità, il livello mai toccato prima. Il dato, ha affermato il Ministero del Lavoro spagnolo, ha confermato il peggioramento della situazione economica nel secondo semestre del 2011. A luce di questi dati, noi questa mattina abbiamo interpellato un economista, Valentina Furlanetto, ha chiesto al professor Francesco Daveri, professore di politica economica all'Università di Parma, oltre che animatore del sito lavoce.info, se si possa parlare di un'Europa a due velocità. Credo che sia un buon riassunto di quello che sta succedendo in Europa, non solo in dicembre o in novembre, ma ormai da un paio d'anni. Abbiamo che l'Europa del Nord, che è quella che è più solidamente integrata nei processi di globalizzazione, che è così guidata dalla Germania, ma che ha intorno i paesi che erano una volta dell'area del Marco e poi i paesi nordici che stanno andando molto, molto bene, a cominciare dalla Svezia, che è pure fuori dall'area euro, ma che comunque è dentro l'Europa. Insomma, tutta quest'area è un'area di vincitori, cioè di gente che è uscita dalla recessione del 2009 e che ha economie che crescono del 3% l'anno o a qualche cosa di meno, e che quindi produce dei risultati molto positivi sul mercato del lavoro. Prima di tutto la Germania, che ha appunto 41 milioni di occupati e un tasso di disoccupazione che è sceso sotto il 7%, che per i tedeschi è un tasso inusualmente basso. Dall'altro lato abbiamo l'Europa del Sud, che invece continua a dare risultati che sono molto più negativi. poi torneremo sui temi occupazionali. Rimaniamo per un attimo in Europa, perché in vista dell'arrivo dei rappresentanti della Troica, formata da esponenti dell'Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea ad Atene, arrivo previsto per il 15 gennaio, il governo greco si trova sotto pressione. Le trattative con i rappresentanti dei creditori internazionali del paese saranno molto dure questa volta, visto che dal loro esito dipende la concessione o meno della prima tranche del nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia, deciso dal vertice europeo del 26 ottobre. Si tratta di un pacchetto di 89 miliardi di euro. I rappresentanti dei creditori internazionali chiederanno al governo del premier Papademos risultati concreti sul fronte della lotta all'evasione fiscale e sulla riforma del sistema fiscale. Insisteranno sulla chiusura degli enti statali inutili e sul licenziamento del personale in esubero, sulla liberalizzazione delle professioni chiuse, tema del quale probabilmente abbiamo sentito tutti parlare anche per quello che riguarda il nostro paese in questi giorni, e sulle privatizzazioni, fronti sui quali per il momento in Grecia si è fatto poco. In più, al centro delle trattative si troveranno le misure necessarie per coprire il buco di 3 miliardi di euro nel bilancio del 2011 e il modo per reperire i 7 miliardi di euro che invece serviranno per il triennio 2012-2015. E tra l'altro, alla luce di tutto questo, c'è da segnalare che oggi in Grecia è continuato per il secondo giorno consecutivo anche lo sciopero di 96 ore proclamato dai medici dell'Istituto dell'Assistenza Sociale e dei medici liberi professionisti, e l'astensione dal lavoro anche dei medici dei centri sanitari, anche se i sanitari appunto stanno garantendo l'assistenza per i casi di emergenza. Proseguono il loro sciopero in Grecia anche i farmacisti. E oggi c'è stata, sempre relativamente alla Grecia, una dichiarazione abbastanza allarmante del portavoce del governo greco, Capsis, che ha appunto ha rilasciato questa dichiarazione ad una TV greca, che è stata poi a sua volta riportata dal sito internet della BBC. E secondo questa dichiarazione, la Grecia uscirà dall'eurozona se il secondo accordo di salvataggio per 130 miliardi complessivi dovesse fallire. Dichiarazioni appunto preoccupanti, che ovviamente dovranno essere in qualche maniera tenute in considerazione da questa missione degli organismi appunto europei prevista per metà mese. Ritorniamo in Italia, dove il 53% dei lavoratori italiani è disposto a trasferirsi all'estero se guadagnasse di più. Il 32% lo farebbe anche a parità di salario, per un lavoro più in linea con le proprie aspettative. È quanto emerge dalla quarta edizione del Work Monitor Randstad sull'andamento del mercato del lavoro, una indagine che viene svolta periodicamente da questa multinazionale olandese in 29 nazioni, e questo è quanto emerge relativamente all'Italia. Più della maggioranza degli italiani è quindi insoddisfatta del proprio stipendio, al punto di essere disposta appunto ad emigrare. Immaginiamo che non sia proprio insoddisfatta del proprio stipendio la categoria dei parlamentari, visto che sono al top dei compensi tra i 6 paesi presi in considerazione dalla Commissione sul livellamento retributivo Italia-Europa, oltre 16.000 euro al mese, senza considerare le spese di rappresentanza. Questo quanto percepirebbero appunto i parlamentari italiani. Il deputato italiano incassa ogni mese 11.283 euro come indennità parlamentare, oltre a 3.503 euro come diaria indennità di residenza, 1.331 euro per il trasporto, per un totale appunto di oltre 16.000 euro, a fronte dei 12.600 complessivi di un deputato tedesco e dei 13.500 di uno francese. Secondo la relazione, l'Italia è al top anche per il numero di enti unici, con una serie di istituzioni, agenzie e commissioni che non trovano alcuna corrispondenza negli altri paesi europei. Un ampio pacchetto di liberalizzazioni che non si fermi a taxi e farmacie, da inserire all'interno di un provvedimento sulla concorrenza che con molta probabilità avrà la forma di un decreto legge. Questo è quanto sarebbe allo studio da parte del governo Monti, l'ipotesi che sta prendendo forma nell'ambito delle nuove riforme per la crescita, allo studio appunto del governo. Il dossier liberalizzazioni potrebbe affrontare anche i nodi di Poste, benzinai, servizi locali e ordini professionali. La Confindustria torna a chiedere al governo tagli alla spesa perché non sono più accettabili aumenti della pressione fiscale. Fra i tagli alla spesa, secondo quanto ha affermato il direttore generale Giampaolo Galli nel corso della trasmissione Omnibus questa mattina sulla 7, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di licenziare i dipendenti pubblici, dovrebbe essere possibile ragionare anche su questa materia. Detto ad un certo punto, dovremmo porci anche questa prospettiva. Licenziare i dipendenti pubblici, Confindustria dovrebbe essere più attenta a ciò che dice. Così la CGIL ha replicato alle dichiarazioni di Galli. C'è bisogno di definire un riassetto dello Stato, un'innovazione efficiente della pubblica amministrazione. Riassetto ed innovazione, dice la CGIL, non si fanno con i tagli. E l'ultima indicazione che arriva dalla CGIL, che ci porta dritti al primo approfondimento di oggi, sono 46 le modalità contrattuali che permettono l'accesso al mondo del lavoro. Una eccessiva flessibilità in entrata che potrebbe limitarsi a 5 tipologie. La CGIL ribadisce la sua posizione elencando una ad una le diverse tipologie contrattuali con uno studio del Dipartimento Mercato del Lavoro del Sindacato di Corso Italia. In questo quadro, su 100 assunzioni, soltanto 18, dice la CGIL, sono a tempo indeterminato. Per le notizie in breve è tutto, il nostro primo approfondimento di oggi. Allora, avrete trovato questa notizia su gran parte dei giornali di oggi. Il tema è molto delicato, ma non si deve perdere tempo, anche se ancora siamo in clima festivo. Il governo, come sapete, lo avrete letto appunto, vi dicevo, è al lavoro per definire una riforma del mercato del lavoro che consenta di razionalizzare la situazione attuale, che è contraddistinta, come rilevava lo studio della CGIL di cui abbiamo raccontato poco fa, contraddistinta da oltre 40 tipologie contrattuali con ampie disparità di trattamenti e garanzie. In particolare si starebbe mettendo a punto un contratto con delle tutele crescenti nel tempo. Il ministro Fornero starebbe lavorando a quello che si chiama appunto il cosiddetto contratto graduale, però oggi c'è da registrare nella cronaca anche sia le dichiarazioni fatte dal presidente della Repubblica Napolitano a Napoli sul tema degli ammortizzatori sociali, ma c'è anche da registrare, come dire, questo scontro a distanza fra governo e sindacati sul metodo relativo alla definizione appunto della riforma del mercato del lavoro, perché i sindacati vorrebbero andare tutti insieme a discutere con il ministro Fornero delle direttrici che questa riforma dovrebbe prendere, mentre il governo sarebbe intenzionato invece ad effettuare degli incontri bilaterali. La CGIL vuole il tavolo unitario e il governo non lo vuole. In tutto questo c'è naturalmente anche la sostanza della riforma del mercato del lavoro. Noi di tutto questo parliamo con il collega delle Sole 24 Ore, Davide Colombo, che saluto. Davide, buonasera e buon anno naturalmente. Buonasera e buon anno a voi. Ti faccio subito sentire intanto le dichiarazioni del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano oggi a Napoli sul tema della necessità di ripensare gli ammortizzatori sociali. Vedo che c'è una necessità ampiamente riconosciuta come comune, che è quella di ripensare tutto il tema degli ammortizzatori sociali, delle forme di sicurezza sociale da un lato, e dall'altro naturalmente di affrontare i nodi che sono stati già affrontati con l'accordo del 28 giugno tra le confederazioni sindacali, che fu un accordo sottoscritto da tutte, nessuno escluso. Davide, a parte la dichiarazione del Presidente della Repubblica, il tema, come dicevo prima, è la sostanza della riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, appunto, che il governo potrebbe mettere in campo e dovrebbe mettere in campo al più presto dopo il confronto con le parti sociali. Il sindacato un po' frena perché dice su questi temi non possiamo adottare ovviamente degli strumenti anche legislativi immediati, bisogna studiare le nuove modellistiche contrattuali, come tu le definisci questa mattina sulle Sole 24 Ore. Il ministro Fornero avrebbe allo studio questo modello di contratto graduale. Qual è la logica di questo modello, Davide, in che cosa consisterebbe? Ma questo è una delle ipotesi naturalmente su cui si stanno esercitando i tecnici del ministero e non solo. La logica di questo modello è con la logica del passaggio al contributivo per tutti i lavoratori da tre giorni fa, cioè dal primo gennaio, per quello che riguarda appunto i contributi per la pensione, no? Il calcolo contributivo porta con sé la logica che per una buona pensione contano i contributi di tutta una vita e non conta più, come nel retributivo, il livello dello stipendio che si ha alla fine del ciclo di vita lavorativa. Ecco quindi l'idea di cercare di ragionare su delle forme di flessibilità o gradualità contrattuali, non solamente in entrata, ma anche nella parte finale. In qualche modo questa tipologia di contratto risponde anche alla domanda che ci siamo fatti tutti nelle scorse settimane, e cioè com'è possibile mantenere al lavoro un lavoratore oltre 60 anni per certe tipologie di impiego particolarmente gravose o complesse. Ecco, una ipotesi di risposta a questa questione, e quindi un'ipotesi di risposta alla sostenibilità di un modello di pensionamento che prevede una vita lavorativa più lunga, e anche con un contratto che gradualizza l'uscita, per esempio mixando possibilità di tempo parziale con una possibilità di incasso di una prima parte della pensione. Non è un'invenzione, sono modelli che esistono in diversi paesi del nord Europa da diversi anni e che sono stati sperimentati, quindi si tratterebbe di introdurre, uno degli elementi. Naturalmente la riforma di cui si sta parlando prevede tante cose, una gradualità di ingresso, un'armonizzazione dei vari tipi di contratto che esistono. Prima ne citavi 46 che ha contato la CGIL, una armonizzazione della legislazione sul lavoro. Ci sono oltre 100 leggi che in questo momento regolano i rapporti di lavoro. Ecco, per esempio, una delle ipotesi proposta di riforma è quella di ridurre a 70 nuovi articoli del codice civile questa ipertrofia normativa che rende illeggibile il mercato del lavoro italiano. Mettiamoci nei panni, per esempio, di un investitore estero che dovesse scegliere di investire in Italia, che, ecco, come dice per esempio il senatore Chino, il nostro diritto del lavoro non è neanche traducibile in inglese. Ecco, questi sono i vari aspetti che in qualche modo sono sul tavolo di questa trattativa che dovrebbe aprirsi dopo l'Epifania, con tutte le frizioni del caso tipiche italiane. Come abbiamo visto, i sindacati già pongono delle questioni di metodo, loro vorrebbero avere un incontro collettivo, mentre invece la metodologia interna vorrebbe essere quella di incontri individuali, ascolto dell'analisi che i sindacati e i datori di lavoro fanno dell'attuale assetto del nostro mercato del lavoro, e poi il recepimento delle proposte concrete di questi attori sociali. Ci fai capire un attimo, Davide, poi ritorniamo al merito della riforma del mercato del lavoro, ma perché il sindacato insiste così tanto sul tema del metodo? Perché insiste sul tema del tavolo unitario e non di discussioni separate? Perché tanto poi comunque un punto di intesa comune alla fine si deve trovare, no? Alla fine quello che si dicono, tavoli differenti devono comunque essere comunicati da una parte ad un'altra. Qual è il problema della partenza di colloqui individuali e separati per il sindacato, per capirlo, perché magari appunto queste dinamiche nelle relazioni industriali e tra le parti sociali non le conosce? Ma diciamo che è un problema di tipo politico, evidentemente. Il sindacato CGIL, CISL e UIL hanno avuto momenti di unità e di divisione molto netti negli ultimi tre anni, nei primi tre anni di questa legislatura. Si sono combattuti su fronti opposti su diversi snodi dell'azione di governo che ha riguardato il mercato del lavoro. Pensiamo al collegato lavoro approvato nei primi due anni circa della legislatura, pensiamo al confronto sulla vicenda Fiat, per poi avere invece dei momenti unitari come appunto la sigla del 28 giugno scorso, del 2010 chiedo scusa, che ha ricordato poco fa, che avete fatto risentire il Capo dello Stato nelle sue dichiarazioni di oggi a Napoli. È una divisione politica che si polarizza ancor più in un momento in cui i partiti sono un passo indietro a fronte di un governo tecnico che cerca di dare delle risposte in tempi molto stretti a una domanda che viene dall'Europa, perché ricordiamoci che questo aspetto del mercato del lavoro e della sua flessibilità in uscita, cioè il superamento dell'attuale dualismo sulla licenziamento possibile e il reintegro giudiziale, è una richiesta che arriva dall'Europa che stava nella famosa lettera della BCE, ma che insomma è sul tavolo. I dati che avete letto nella prima parte della trasmissione, che fotografano il livello di disoccupazione della Germania rispetto a quello di altri paesi. Ecco, ma io vi do un dato o due su cui, come dire, è pure interessante riflettere: non il tasso di disoccupazione, ma il tasso di occupazione. In Italia il tasso di occupazione è al 56% contro il 71% della Germania. Il tasso di occupazione delle donne in Italia è al 46% contro il 66% della Germania. Se guardiamo la differenza tra Italia e Regno Unito per l'occupazione femminile, più o meno scopriamo che nel Regno Unito ci sono 5 milioni di donne che hanno un lavoro a tempo pieno o parziale, standard o atipico. 5 milioni di occupati in più rispetto all'Italia. Infatti questa è la parità di popolazione. È il cosiddetto altro lato fragile del mercato del lavoro di cui tu parli questa mattina sul Sole 24 Ore, che si aggiunge anche alla fetta dei giovani. Se apriamo questa parentesi, davvero noi veniamo più giovani, fuori, e infatti, sono, oltre alle donne. Ci sono i giovani, ci sono le donne, ci sono, come dicevo in questo articolo di oggi, i lavoratori over 55. Che dovrebbero a questo punto, con la riforma delle pensioni, andare avanti a lavorare fino a... La questione del contratto graduale risolverebbe la questione delle uscite. Per quello che riguarda gli ingressi, non riusciamo a fare un ragionamento, Davide, ma sicuramente ci torneremo nei prossimi giorni. Solo 30 secondi di tempo per chiederti, se ne sei a conoscenza, se ci sono degli step già che governo e sindacati si sono dati per cominciare a discutere di tutto questo, oltre alle discussioni di oggi fatte sulla questione del metodo. Gli step sono quelli che il Presidente del Consiglio ha dato nella conferenza stampa di fine anno. Cioè, noi sappiamo che la metodologia è questa: il Ministro Fornero dovrebbe incontrare singolarmente le organizzazioni dopo l'Epifania, quindi da lunedì 21, per dire, con incontri di questo tipo, cioè di raccolta di dati, analisi del mercato del lavoro e di proposte di intervento, di policy. Il Presidente del Consiglio ha indicato la data del 22-23 di gennaio come un primo riferimento per portare in sede europea un pacchetto di misure che stanno in questo provvedimento Cresci Italia. Ora, che ci siano già delle misure che riguardano il mercato del lavoro entro quella data, io sono un po' scettico, però ecco. Però con qualche proposta che quantomeno sia, anche se in termini molto generali, condivisa, probabilmente il governo ci dovrà anche andare, e qualche stretta anche nella concertazione in questi giorni dovrà essere trovata. Davide, grazie, buonasera. Grazie a voi. Grazie molto a Davide Colombo, collega delle Sole 24 Ore di Roma. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità e poi vi raccontiamo quello che è successo oggi in borsa. Milano più 1,24% sul FTSE MIB, l'ascoltatore che lo chiede, sì, siamo sopra i 15.000 punti, 15.645, tra poco. Molti commenti degli ascoltatori sul tema che abbiamo appena trattato, il tema della bozza di discussione sulla riforma del mercato del lavoro, ne sentiremo sicuramente parlare a lungo nelle prossime settimane. Chi invece chiede come mai lo spread che le banche applicano sui mutui non si abbassa, nonostante le banche italiane, come molte altre europee, abbiano ricevuto il corposo prestito da parte della Banca Centrale Europea, questa super asta di fine dicembre, con la quale è stato concesso credito illimitato ad un tasso davvero risicato. Allora, bella domanda, veramente interessante questa, anche noi vorremmo chiederlo alle banche, visto che peraltro, siccome oggi la Banca Centrale Europea è dovuta soccorrere di nuovo al capezzale, no? Brutto termine, per carità, non lo usiamo neanche più, del Tesoro italiano, perché ha comprato altri titoli di Stato per allentare la pressione sullo spread, e visto che con questo credito concesso dalla BCE le banche avrebbero dovuto fare loro questo lavoro, vorremmo proprio sapere come stanno utilizzando questo denaro. Speriamo almeno che lo diano un po' alle imprese che hanno necessità. Dubitiamo un po' anche di questo, ma prima o poi dovranno fare un resoconto dettagliato su come stanno utilizzando questa liquidità. Nel frattempo, bando alle ciance, il racconto della giornata di borsa. Livia Zancaner, buonasera, Radio Cora Il Sole 24 Ore. Buonasera. Beh, allora, l'anno sta partendo decisamente bene, a meno che la Befana nella calza non ci metta un po' di carbone venerdì prossimo e ci faccia pentire amaramente di tutto questo ottimismo. Vedo che questa seconda giornata dell'anno si chiude in maniera proprio positiva. Milano più 1,24, Francoforte, grazie al dato sulla disoccupazione, più 1,50, Parigi che ha sofferto per tutta la mattina, più 0,7, Londra che recupera i rialzi di ieri, più 2%, molto bene anche Wall Street. In questo momento come mai tutta questa euforia oggi? Sì, allora diciamo che l'Europa è stata trainata soprattutto da Wall Street, che ieri era chiusa per festività, dove ora il Dow Jones sta guadagnando l'1,95%, e anche dai dati macro americani e, come dicevi tu, tedeschi sopra le attese. Inoltre il comparto materie prime in Europa ha guadagnato il 5% grazie soprattutto all'incremento dell'attività manifatturiera in Cina e in Gran Bretagna. La Francia, come dicevi tu, è stata più debole a causa delle continue voci che si rinnovano, ma sono state poi smentite, di un possibile declassamento da parte dell'agenzia di rating. Comunque la giornata si è chiusa sostanzialmente. Ma secondo te arriva prima o poi o no? Non lo so, oggi un funzionario del governo ha detto che al momento non è arrivata alcuna indicazione, solitamente arriva prima. Al momento loro hanno detto che non hanno ricevuto nessuna comunicazione, non so se la riceveranno magari tra due, esatto, tre giorni. Infatti la stiamo veramente tirando, insomma, qualche volta che questi francesi sono stati un po' antipatici, un po' gli spocchiosetti, ma credo che la bocciatura arriverà anche a loro, quantomeno le banche ormai l'hanno quasi digerita. Detto questo, poi non è detto, magari saremo anche smentiti, migliori titoli di Milano oggi segnano un più 5%, due società che operano in comparti completamente differenti: STM, quindi la tecnologia, microchip più 5%, e TOTS più 5%. Non ho visto notizie che hanno riguardato questi titoli, magari hanno sofferto un po' l'anno scorso, oggi qualcuno è corso a ricomprarli, oppure stamattina scherzavo un po' sui saldi per TOTS, che gli abbia fatto bene al gruppo di Diego Della Valle anche qualche offerta sconto. Sì, allora bisogna dire che oggi è stato ben intonato tutto il settore del lusso, anche in Francia. Ci sono delle prospettive di crescita positive nonostante la crisi, a spingere il settore del lusso, che in effetti aveva sofferto un po' nelle settimane e nei mesi precedenti, sono state anche le buone indicazioni appunto arrivate dalla Cina. Ricordiamo che l'attività manifatturiera in Cina a dicembre è balzata sopra i 50 punti. 50 punti è una soglia che divide un'economia in espansione da una in contrazione. Di questo potrebbe aver beneficiato il comparto del lusso, che sappiamo è ben presente in Cina. Ieri abbiamo dedicato a Focus Economia un approfondimento sulle vicende in casa Monte dei Paschi, che però anche oggi archivia la giornata con un rialzo di quasi 4 punti. Molta discussione sul tema del ricambio ai vertici, pare che il presidente Mussari non se ne voglia andare. Vabbè, chi è che vuole andarsene tranquillamente dalla carica di presidente di un grande e blasonatissimo studio istituto bancario come questo? Detto questo, il tema di Monte dei Paschi, che lo scorso anno perso il 70% del suo valore, quindi magari qualche investitore corre anche a ricomprarsi questo titolo, che ormai quota 27 centesimi, quindi veramente poco. Il tema è anche la ricapitalizzazione di questa banca, necessità di farlo, lei Baglieri chiede, ma la modalità con cui lo farà, e questo è il grande tema del dibattito, mi pare, di Livia. Sì, infatti MPS in questi giorni è sotto i riflettori, come dicevi tu, per un cambio al vertice, ma anche per l'aumento di capitale. Infatti indiscrezioni stampa hanno riportato che la banca starebbe preparando un piano per la cessione di attività non core, quindi non fondamentali, possiamo dire così, un'operazione che potrebbe evitare ad MPS l'aumento di capitale da oltre 3 miliardi indicato dall'autorità bancaria europea. Di questo quindi oggi ha beneficiato il titolo, e con il mercato che sta aspettando novità quindi sull'argomento. L'anno si è chiuso male, noi poi ne parleremo fra una decina di minuti per il settore auto in Italia, immatricolazioni in ribasso, abbastanza brusco, questo è quanto ha comunicato ieri sera il Ministero dei Trasporti. Però oggi i titoli Fiat sono andati tutti bene, sia i titoli SPA che Industrial, più 3,67, più 3,53, ma anche l'azionista di riferimento Exor, più 1,82%. A cosa si deve questa ripresa del titolo, dei tre titoli, della trilogia dei titoli del lingotto, Livia? Sì, bisogna sottolineare che la Fiat questa mattina aveva iniziato la giornata sottotono, appunto come dicevi tu, per i dati negativi sulle immatricolazioni. La Fiat continua a perdere più del mercato, poi il recupero delle borse, soprattutto il balzo del comparto auto europeo, ha trainato anche i titoli della Galassia Agnelli. Bisogna sottolineare che i titoli auto sono andati bene soprattutto a Francoforte, con Daimler e BMW che hanno guadagnato oltre il 4%. Volevo salutare un ascoltatore, Fabio, che dice: ma signora Rosciani, scherza, quale euforia? Guardi dov'è l'indice MIB rispetto al 2007. Infatti, Fabio, non è che sto parlando di un'euforia che riguarda il mercato dal 2007, parlavo di oggi, di ieri. C'è da dire anche che insomma siamo sotto il 25% rispetto all'inizio dello scorso anno, per cui mamma mia, sempre a stare molto attenti alle parole che si usano. Insomma, oggi è stata una buona giornata per il mercato azionario, meglio così, siamo più sobri nella dialettica finanziaria. Le banche, vorrei andare a vedere, visto che sono andate tutte bene, Livia, il motivo per cui invece UniCredit oggi ha perso il 2,47%. Sì, allora UniCredit risente sempre ancora delle incertezze sui dettagli relativi all'aumento di capitale da 7,5 miliardi. I dettagli, con tutta probabilità, come riportato dai quotidiani, verranno definiti nel CDA in calendario per domani. Il mercato teme soprattutto un'operazione a forte sconto, atteso tra il 35 e il 45%, e in discrezioni stampa oggi appunto ipotizzano uno sconto per l'operazione di aumento di capitale superiore al 40%. Questo potrebbe quindi penalizzare il titolo. Bisognerà vedere domani quali saranno le novità e se ci saranno novità. Insomma, il velo dovrà essere alzato in tempi molto brevi. Terna frena oggi dopo il rialzo di ieri dovuto alle prospettive appunto di aumento generalizzato delle tariffe nel nostro paese. Terna -1,16%, Diasorin -0,90%, Snam Rete Gas -0,11%. Questi sono gli unici quattro titoli che hanno chiuso con il segno meno a Piazza Affari. Quelli che hanno guadagnato meno: la Popolare di Milano +0,03%, peraltro sulla questione del bond convertendo in azioni. Anticipo già ai nostri ascoltatori che ci soffermeremo su questo tema che ha turbato e fatto arrabbiare molti risparmiatori domani a Salvadanaio. A2A +13%, Intesa San Paolo +0,30%. Stavo cercando Mediaset per capire se si fosse ripresa dal cattivo andamento di ieri. Com'è andata oggi per il Biscione, Lidia? Sì, allora questa mattina per metà seduta il titolo è stato piuttosto sottotono, poi ha chiuso con un rialzo dello 0,80%. Ieri le azioni avevano guadagnato quasi il 5%, ma oggi alcuni esperti hanno tagliato del 21% le attese sugli utili del 2012, sottolineando che le misure di austerity introdotte dal nostro governo peseranno sulla raccolta pubblicitaria del gruppo. Di questo quindi aveva risentito il titolo questa mattina, risalendo poi grazie all'euforia di oggi sui mercati. La fibrillazione sulle materie prime in qualche maniera ha condizionato positivamente o meno i titoli del settore a Milano. Eni sulle petrolio, non so se è questo che ha fatto bene al titolo del cane a sei zampe, ha guadagnato l'1,79%. Altri movimenti di rilievo nei settori che rappresentano in qualche maniera, nei titoli che rappresentano in qualche maniera il settore? Sì, allora bisogna sottolineare che Tenaris ha guadagnato il 2,6%, Saipem l'1,3%, sono comunque titoli legati al settore energetico che appunto oggi ha risentito positivamente del buon andamento del petrolio e del comparto materie prime. Livia Zancaner, grazie per essere stata con noi e buonasera. Buonasera, grazie a voi. Grazie Livia. Livia passa invece adesso il microfono ad un collega che probabilmente non sta molto lontano di scrivania, un altro collega di Radio Corri, Il Sole 24 Ore, che io saluto subito, Guido Maurino. Guido, buonasera. Buonasera. Ti chiedo solo un minuto di pazienza, ci sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e poi raccontiamo ai nostri ascoltatori come mai sta volando in questi giorni la Galassia Ligresti, dopo che per il 2011 è stata bastonata in ogni modo. Oggi Prema, fin finanziaria +25%, fondiaria SAI, titoli a risparmio +15%, i titoli ordinari +11%. Insomma, come mai adesso gli investitori tornano a ricomprare questi titoli? Lo scopriremo fra qualche minuto. Una risposta ad un ascoltatore che chiede: come mai ora UniCredit quota circa 6 euro mentre prima non arrivava neanche ad un euro? Perché la settimana scorsa è stata fatta un'operazione di raggruppamento delle azioni, 10 per una praticamente. Adesso è stata una cosa non particolarmente complicata, ma è stato effettuato questo raggruppamento proprio per fare poi l'aumento di capitale in maniera più razionale, quindi niente di che. Chi aveva 10 azioni adesso praticamente ne ha una nella sostanza, ma il valore appunto del patrimonio, del portafoglio investito rimane identico. Detto questo, stavo ancora controllando altre mail da parte degli altri ascoltatori e tornando al tema delle banche che affrontavamo prima sulle motivazioni per cui non utilizzano questo enorme credito, perché le banche italiane hanno chiesto tanti soldi alla BCE per ritornare a fare il loro lavoro. E un ascoltatore, Andrea, un bancario, ci dice: stanno sistemando i loro buchi con i soldi della BCE e a noi operatori vietano di emettere mutui e finanziamenti. Molto bene. Allora, Guido Maurino, parliamo d'altro, va, che è meglio, e andiamo un po' a vedere come mai c'è questo fermento, anche se per la verità abbiamo seguito abbastanza da vicino le vicende delle società della famiglia Ligresti negli ultimi mesi, ma come mai questi titoli sono tornati a volare in maniera così vistosa, enorme, visto che sembrava che fosse sull'orlo del baratro questo gruppo, appena alla fine di dicembre fosse ad un passo dal dissesto finanziario. Adesso, insomma, che cosa c'è di nuovo, che cosa è successo nelle ultime ore? Sostanzialmente si torna a scommettere un pochettino sul riassetto di quella che abbiamo sempre definito la galassia Ligresti, che probabilmente fra qualche mese non sarà più la galassia Ligresti, ma sarà quella dei nuovi soci che entreranno in Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, le tre società quotate dell'ingegnere. Ed è un po' per questo che in questa prima parte dell'anno abbiamo visto questi acquisti su Premafin, anche se dobbiamo considerare che Premafin è sostanzialmente un titolo illiquido, ha un flottante di poco più del 10%. Quindi anche se io acquistassi 100 euro di titoli domani mattina, il titolo farebbe più 15? Che il rischio è un po' quello, per cui tutti ci concentriamo adesso dicendo che in tre giorni la capitalizzazione di Premafin è più che raddoppiata, ma è sostanzialmente più che raddoppiata fra scambi molto ridotti, come sono sempre stati quelli su Premafin. Allora, visto che il mercato scommette su questo riassetto del gruppo assicurativo, questo riassetto sarà possibile intanto perché il gruppo deve procedere a questo aumento di capitale, del quale abbiamo a lungo parlato nelle scorse settimane, fino a 750 milioni di euro, e quindi bisognerà capire chi aderirà, chi lo eserciterà e chi entrerà anche come nuovo socio approfittando di questa operazione. Che nomi si fanno, Guido? Allora, si fanno diversi nomi e diverse soluzioni, perché inizialmente si cercava un socio forte che entrasse in Premafin. Premafin controlla il 35% di Fondiaria Sai, quindi trovando un socio di Premafin ci sarebbe stata, diciamo così, la garanzia che l'aumento di capitale di Fondiaria Sai poteva andare a buon fine. Molti investitori istituzionali, ma anche fondi di private equity, hanno mostrato un interesse, si è detto a lungo del fondo di private equity Clessidra, ma anche Palladio Finanziaria, Permira, Apax, anche alcuni imprenditori come Moretti Polegato, il patron di Geox, o l'imprenditore Vittorio Malacalza, che già affianca Tronchetti Provera nelle società che controllano Pirelli, hanno guardato il dossier Premafin. Sostanzialmente si trattava di entrare in Premafin, visto che la famiglia Ligresti non ha più risorse da immettere nella società, e attraverso Ligresti prendere, diciamo così, il controllo di Fondiaria Sai. Negli ultimi giorni però si è sviluppata anche un'ipotesi alternativa, che è quella di un'integrazione fra Fondiaria Sai e Unipol. Si tratterebbe di unire due grandi compagnie assicurative italiane e si cerca di capire un pochettino come questa integrazione è possibile, se è possibile, visto che comunque anche Unipol non gode di una salute eccelsa, in particolare ha un problema molto forte che è quello relativo alla banca, Unipol Banca, che ha incagli molto elevati, e per cui da una parte un'ipotesi suggestiva, dall'altra rischia anche un pochettino di essere un incrocio di due di rimanere tale rischia. Senti, no, stavo anche curiosando adesso in tutti gli appunti che mi ha scritto Mauro Del Corno relativamente alla composizione dell'attuale assetto azionario di Fondiaria Sai, Premafin appunto della famiglia Ligresti, prima azionista, adesso al 35%, come secondo azionista c'è Unicredit che ha quasi il 7% di quota di questa compagnia di assicurazione. Stavo pensando, già Unicredit che deve fare il suo di aumento di capitale, con tutte le problematiche con cui la banca è alle prese in questo momento di core business e di questioni appunto finanziarie, ci manca pure che debba aderire per la sua quota parte all'aumento di capitale di Fondiaria. Mi chiedo se Unicredit lo farà o meno. Adesso non so se tu ti sei fatto anche questa domanda, Guido, però il tema è anche un po' quello, sì, soci che possono farlo o meno. Sì, spesso soprattutto i piccoli imprenditori accusano un po' i grandi istituti sostanzialmente di essere vicino alle grandi aziende, come può essere in questo caso Fondiaria Sai, e poi di negare i prestiti al piccolo imprenditore. Ovviamente Unicredit è parte attiva in questo riassetto, bisognerà vedere in che modo, ma come parte attiva d'altra parte Mediobanca. Domani tra l'altro c'è una riunione in Mediobanca per discutere dei destini del gruppo assicurativo. Sì, in realtà sono riunioni che ci sono, come dire, quasi tutti i giorni, sono aspetti da approfondire. Ad esempio Mediobanca è sia creditore di Unipol per, mi sembra, 400 milioni, sia creditore di Fondi Ariassai per 1 miliardo, per cui in qualche modo il tentativo di metterle insieme è anche un'idea che arriva molto dal mondo bancario, che sta cercando una soluzione per i suoi crediti. Guido, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi. Sentiremo sicuramente parlare ancora di queste vicende finanziarie della compagnia di assicurazione che fa capo alla famiglia Ligresti. Adesso però lasciamo la finanza, andiamo all'auto. Come per molti altri settori, anche per l'auto il 2011 è stato un anno estremamente difficile. Per la verità questo comparto viene da un periodo forse un po' più lungo di difficoltà. Le vendite di nuove auto in Italia sono scese di quasi l'11% rispetto al 2010, con un meno 15% nel solo mese di dicembre. Per andare un po' a curiosare all'interno delle singole società, dei singoli marchi, nei 12 mesi Fiat ha fatto peggio del mercato con 515.000 immatricolazioni, il 13,8% in meno rispetto al 2010. Fra i big si sono salvati i grandi gruppi tedeschi, Volkswagen più 1,2%, BMW più 0,55%, ma anche Nissan più 18%, male invece Ford meno 19%, Renault meno 15%, Peugeot Citroën meno 24%, Toyota meno 11%, Daimler meno 6,6%. Buonasera a Filippo Pavan Bernacchi, che è presidente di Federauto, l'associazione dei concessionari buonasera. Auto. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. Tra l'altro, ieri sera questi dati il Ministero dei Trasporti li ha comunicati con 45 minuti di ritardo. So che voi li avete anticipati un po' prima, ma vi aveva suscitato qualche dubbio questo ritardo nel rilascio dei dati da parte sul tema delle immatricolazioni a parte del Ministero? Ma guardi, c'è stato un problema tecnico, per cui anche noi siamo usciti per sbaglio e quindi non c'era nessuna volontà di scavalcare nessuno, solo che c'è stato un problema informatico. Infatti non è che le volevo dire quello, certo, perché avete scavalcato, era solamente per capire se c'era stato qualche dubbio anche da parte vostra sulle motivazioni per cui questi dati non uscissero. Che fossero brutti, d'altronde ce lo aspettavamo tutti. Ufficialmente c'è stato un problema tecnico, comunque quello che diceva lei è perfetto. Noi stiamo vivendo più o meno una decrescita ogni anno del nostro mercato. Nel 2007 erano state vendute in Italia 2.490.000 vetture, e poi negli anni 2008, 2009, 2010 200, 1.960 nel 2010, 1.750 più o meno nel 2011, e l'anno prossimo andremo anche sotto il 1.700, quindi è drammatico. E il primo penalizzato da tutta questa cosa qui paradossalmente è lo Stato, che introiterà circa 2 miliardi di IVA e tasse varie in meno. L'introito che arriverebbe dall'auto, avendo aumentato l'IVA, avendo aumentato appunto le tasse da altri punti di vista, magari spera di compensare questa perdita. Dottor Pavan Bernacchi, so che lei ha detto nelle ultime ore che il mercato degli autoveicoli è stato vittima dei botti di fine anno, che immagino non siano quelli veri che hanno danneggiato le carrozzerie delle vostre auto, sono altri. Quali sono quelli che vi disturbano di più? Ma noi stavamo cercando di spiegare che dopo l'acquisto della casa, l'acquisto dell'auto è uno dei beni più costosi, no? Per cui siamo passati dagli incentivi del 2009 ai disincentivi del 2011, c'è stato un attacco concentrico all'automobile iniziato con il governo Berlusconi, ogni punto di IVA sono 220 euro medi per l'auto, e quindi su un telefonino magari non si sentono, su un'automobile sì. L'imposta provinciale di trascrizione è aumentata dell'80% e tra le altre cose le province dovevano essere soppresse, invece vengono alimentate da una tassa supplementare. Il superbollo delle auto prestazionali, varato anche quello, dimenticando che l'Italia è tra i primi produttori al mondo di questo tipo di auto. Le accise sui carburanti, ci portiamo dietro ancora degli aumenti temporanei del 1935 dall'Eritrea, gli aumenti dell'RC Auto. Guardi, abbiamo fatto l'elenco delle accise in ogni dove nel nostro palinsesto, ma è proprio impossibile cancellarle, non si capisce per quale motivo. E oltretutto, Presidente, la interrompo solamente per ricordare, tanto per girare il coltello nella piaga, l'aumento dei carburanti di questi giorni. Quanto vi sta pesando anche tutto questo? Ma sicuramente ci sono, appunto, dicevo, dei disincentivi ad acquistare e a utilizzare l'automobile. E questo è un peccato, perché il nostro settore da solo, l'automobile in Italia, fattura l'11,6% del PIL e impiega 1.200.000 persone tra indotto diretto e indotto allargato, e nel 2010 l'automobile ha dato al gettito fiscale nazionale il 16,6% delle entrate totali, quindi sono numeri veramente pesanti. Il nostro settore è un settore che ha bisogno di molta attenzione anche per le persone, per l'occupazione e per il lavoro che dà. In questo momento è un bene primario. Presidente, io devo salutarla, 10 secondi, dal 2012 che cosa vi aspettate? Ma dal 2012 ci aspettiamo un'attenzione particolare del governo. Abbiamo chiesto al Ministro dello Sviluppo Economico un incontro, speriamo, abbiamo delle proposte da fare, speriamo che vengano colte. Diciamo, Presidente, accolte. Devo salutarla purtroppo perché la sigla incombe, ma abbiamo capito benissimo. Grazie, Focus Economia termina qui, ci sentiamo domani, buona serata. Radio 24, la passione si sente.